Now, before revealing the topic of today's Satna Dhamma talk, allow me to ask you a question. What do you experience? Being or becoming? Quindi prima di rivelare l'argomento del discorso di questa sera, vi farò una domanda. What do you experience? Quello che voi sperimentate, l'esperienza che avete, è quello del essere o del divenire, del diventare? Both. Somebody says both, others. Heidi, how would you answer? To be, being, essere. Being. So, well, in this the context of this Dhamma talk, will be on becoming. Quindi in questo discorso di Dhamma ci focalizzeremo principalmente sul divenire. No. In this context, as maybe an introduction, there's a famous Satna statement made by a philosopher, namely, nothing endures but change. Quindi per introdurre questo argomento citerò una famosa affermazione di un filosofo il quale diceva nulla perdura se non il cambiamento. That same philosopher expressed certain things in a slightly different way, and Satna said one could not step twice into the same rivers, for other waters are ever flowing onto you. È un altro modo che ha utilizzato questo stesso filosofo per esprimere questo concetto, dire non si può mai entrare nello stesso fiume due volte, perché sarà sempre un'acqua diversa quella che vi toccherà. Now, who was that philosopher? Quindi chi era questo filosofo? What's that? Gautama. Oh, very good. And among the European philosophers? E tra quelli europei? Heraclitus. Heidi says Heraclitus or Heraclitus. Heraclitus of Ephesus, who lived approximately 540 BC until 450 BC. Quindi Eraclito di Efeso, che è vissuto più o meno tra il 500 e 450 avanti Cristo. Now, what's Eraclito's pointed at was that, according to his understanding, there is no permanence in this world, but things keep changing all the time. Quindi quello che voleva indicare Eraclito era il fatto che non esiste la permanenza in questo mondo, poiché le cose continuano a cambiare. And some modern philosophers have taken up this particular aspect of flux of Satna change and highlighted it, and Satna, this is known as process philosophy. E alcuni filosofi moderni hanno ripreso questo concetto dell'esistenza come un flusso in continuo cambiamento, e questa filosofia si chiama la filosofia del processo. And so as part of this Satna philosophy, the emphasis is placed on formations being in a constant, or being rather dynamic or being dynamic rather than being static. Quindi quello che vogliono enfatizzare questi filosofi, insomma questa corrente filosofica, è che i fenomeni tendono a essere dinamici o sono dinamici piuttosto che statici. Substance philosophy emphasizes static being, whereas process philosophy emphasizes dynamic becoming. Quindi c'è la filosofia sostanziale che enfatizza questo essere statico, la staticità, diciamo, dell'esistenza, mentre invece questa filosofia del processo enfatizza l'aspetto dinamico dell'esistenza. Professor William James, a famous psychology professor from the United States, and then Pierre Teilhard de Chardin, a French Jesuit monk, and others very much subscribe to this process philosophy. E quindi c'è un americano, uno psicologo americano, William James, poi un filosofo francese che però non conosco, di cui non ho colto il nome. Pierre Teilhard de Chardin. Ecco questo, sono due esponenti, ovviamente lo conoscete, sono due esponenti di questa corrente filosofica. So, now, the answers that you've given to the first question, namely, what do we experience, being or becoming, so, some have answered being, essere, others have answered divenire. Mm. So becoming. Mm-hmm. And so, now, what's where's the truth? Allora, rispetto alla prima domanda che vi ho posto, cioè se esperite più l'essere o il divenire, alcuni di voi hanno risposto l'essere, altri il divenire. Adesso, alla luce di quello che è appena stato detto, cosa pensate che sia la verità? No. We have to see from the solution to this made lie in seeing the whole thing again as a process. When we start out meditating, we experience a pain as what? Quindi il modo migliore per capire è forse vedere di nuovo il tutto come un processo. Quindi quando cominciamo a meditare, noi osserviamo un dolore e lo consideriamo come? Lo vediamo come che cosa? Pain. As what? Only pain. Oh, only pain. Un molestatore. A tormentor. Do you experience the pain as rather dynamic or rather compact? At the very beginning of your routine. All'inizio, proprio all'inizio, lo vedete come qualcosa di compatto oppure qualcosa di che si presenta come appunto dinamico, un processo? Compatto. There you go. And it is then, in the course of several days of certainly intensive mindfulness practice, that that compactness of a pain and other objects starts to disintegrate. And then we start to see how that certain very pain actually undergoes many changes. Ed è solo dopo alcuni giorni di meditazione intensiva che riusciamo a vedere come questa compattezza del dolore comincia a sgretolarsi. E allora vediamo come questo fenomeno come dire, si presenta in maniera continuamente cangiante. E questo poi lo verificheremo sempre di più nel corso della pratica. And so this is what happens with regard to many things. Our initial perception of an object or a certain condition is one, and suddenly when we contemplate that particular condition time and again and our mindfulness improves, we get to perceive it in a different way. E questo succede per una infinità di oggetti. Inizialmente la nostra prima percezione di quell'oggetto è in un certo modo, Poi quando ripetutamente lo osserviamo e la consapevolezza si è sviluppata maggiormente, vediamo che effettivamente è diverso da come l'avevamo inizialmente visto. No. The Buddha was indeed, as Mahārāja has certainly suggested, the first famous person to highlight this aspect of impermanence. Il Buddha effettivamente è stato la prima persona che ha messo in evidenza, che ha sottolineato questo particolare aspetto dell'esperienza. And the term that he used for this is in the Pali scripture language anicca. Il termine che ha usato nella lingua Pali è aniccia. And certainly from an etymological point of view, this term consists of two parts, a and niccia. Niccia meaning permanent, and certainly the prefix a then negates certainly this. So non-permanence, impermanence. E per spiegare un po' l'etimologia di questa parola, è composto da due parti, a niccia. Niccia significa permanenza, a è un prefisso negativo, diciamo, quindi è la non permanenza. And impermanence then, or the characteristic of impermanence, signifies the nature of Futner things not being permanent, of not being everlasting. E quindi la caratteristica di aniccia è quella delle cose che non sono permanenti, che non sono che non durano per sempre, non sono eterne. Of formations originating and dissolving, of wasting away and decaying. E anche sempre la caratteristica è quella degli oggetti che sorgono e passano, che si disintegrano, si dissolvono e che marciscono. Ma decaying è proprio decaying, marcire. Yeah. And decaying and undergoing various forms of transformation. E quindi è come se le formazioni si sottoponessero a varie trasformazioni. Now, one can distinguish between the characteristic of impermanence and the thing that is impermanent. Quindi si può fare una distinzione tra la caratteristica dell'impermanenza e ciò che è impermanente. And the things that are impermanent are all the formations that are in a general way referred to as the five aggregates. Quindi ciò che è permanente sono tutte quelle cose che rientrano nei cosiddetti cinque aggregati. And their inherent nature of not remaining permanent and undergoing transformation, that is your characteristic of impermanence. E quindi la loro natura inerente, diciamo, insita del non essere permanente, di continuamente cambiare, avere questa natura mutevole, questa è la caratteristica di tutti i fenomeni. No. The Samyutta Nikaya contains a discourse that asks, what is impermanent? And the answer given is the five categories, namely the five aggregates, are impermanent. And in what sense are they impermanent? Well, impermanent in the sense of rise and fall. Nel Samyutta Nikaya c'è un sutta in cui viene proprio posta la domanda: che cos'è impermanente? E la risposta è: le cinque categorie sono impermanenti, intendendo i cinque aggregati. E in che modo sono impermanenti? E la risposta è: sono impermanenti nel senso che sorgono e decadono. And then There's one discourse certainly from the Samyutta Nikaya, another one from the Majjhima Nikaya. One says, all is impermanent. The eye, the physical eye with which we see is impermanent. And certainly, the visible object is impermanent. The seeing process is impermanent, and so on and so forth. E ci sono altri discorsi, sia nel Samyutta Nikaya che nel Majjhima Nikaya, in cui si dice tutto è impermanente. Per esempio, l'occhio che vede è impermanente, l'oggetto che viene visto è impermanente, il processo visivo è anche impermanente, e così via per gli altri sensi. The Majjhima Nikaya says all formations are impermanent. E di nuovo nel Majjhima Nikaya si dice tutte le formazioni sono impermanenti. The Visuddhimagga, the path of purification, defines impermanence as follows. Namely, impermanence of nature has the characteristic of complete breaking up. Allora, invece il Visuddhimagga, il sentiero della purificazione, definisce in questo modo l'impermanenza, che l'impermanenza ha questa caratteristica degli oggetti materiali, quindi la material objects, you said, right? Yeah, right. Materiality. Gli oggetti materiali hanno questa natura del frammentarsi, del distruggersi. And its function is to make material substances subside. La funzione è quella di far sparire, le sostanze materiali. And it is as manifested as destruction and fall. Ed è manifestata come distruzione e caduta. And so its proximate cause is matter that is completely breaking up. E la causa prossima è la materia che si distrugge completamente, si frantuma completamente. No. There are a number of aspects that are worth knowing around impermanence. Now, first off, we find impermanence in the world around us, happening all the time. So if you think of the four seasons in a year, so the nature going through or transforming from one season to the next, then what you have here is change. Sono alcune considerazioni da fare rispetto al cambiamento. Una è quello che possiamo vedere anche nella nostra vita di tutti i giorni, e cioè come la natura cambi rispetto alle quattro stagioni, e questo è abbastanza evidente. The leaves on the trees form, and then later in the year they fall away. Si formano le foglie sui rami e poi più in là con il tempo queste foglie cadono. If you take a flower, there's at first a bud on a stem. That bud then blossoms and suddenly turns into a beautiful flower. Prendete un fiore, c'è inizialmente un bocciolo, che poi sboccia e si trasforma in un bellissimo fiore. And a beautiful flower will not last forever? È un bellissimo fiore, durerà per sempre? Obviously not. And sooner or later, its life cycle is over and it starts to wither, it falls to the ground and decomposes. Ovviamente no, il suo ciclo vitale arriverà a termine, giungerà a termine, il fiore si seccherà, si staccherà e cadrà. E si decomporrà. Now, another major transformation can be seen in ourselves. Think of yourselves when you were still a tiny fetus in the uterus. Un altro cambiamento che possiamo osservare è in noi stessi. Pensate come eravate quando eravate un feto ancora nell'utero materno. And Satya, then think of yourself, Satya, what you look now, right now. E pensate al vostro aspetto adesso. So, what's that? it's a pollution. So. Oh, it's a pollution. So, quite sudden, noticeable changes that must have happened to be what we're now. Quindi ci devono essere stati dei cambiamenti notevoli per far sì che noi siamo quello che siamo adesso. And so, the condition that we experience Satna right now, will this last forever? Le condizioni che noi esperiamo in questo momento dureranno per sempre? And Satna, obviously not. And ovviamente no. So we will gradually age, and Satna, then our health might be failing, and Satna eventually. Yeah, death will take place. Quindi inevitabilmente invecchieremo e probabilmente la nostra salute anche sarà un po' peggiore, insomma, e poi prima o poi moriremo. Now, even though this seems pretty obvious, yet human beings have this fascinating ability to see things in a perverted way. Se questo sembra abbastanza ovvio, eppure gli esseri umani hanno questa abilità di vedere le cose in un modo assolutamente distorto. So if you take some youngster, maybe 15 years old, 20 years old, the prime of his health, youth, and you ask this person about death, the person doesn't even want to think about it, or might not even want to talk about it, and may think that his or her good health will last forever. Prendete un adolescente di 15, 16, 17 anni, nel pieno della giovinezza, della salute, dell'energia, e vedrete che se gli parlate di morte non vorrà neanche saperne assolutamente. Riterrà che la sua buona salute, energia, bellezza, vigore dureranno per sempre. No, based on the fact that for many years our health is good, people then commonly don't make too many provisions for old age. And the reason why social security was introduced, especially health insurance, was because most people they kind of misunderstood the difficulties that come with old age, the failing health and what not. Per il fatto che per una serie di anni abbiamo goduto di una buona salute, questo ci fa pensare che continuerà per sempre, o sottovalutiamo o non consideriamo invece il fatto che arriverà la vecchiaia, la nostra salute peggiorerà, eccetera. E questo ha fatto sì che nascessero proprio le assicurazioni o il servizio sanitario nazionale, diciamo, proprio perché le persone hanno la tendenza a non pensare al fatto che in futuro avranno bisogno di cure, eccetera. Another example for our wrongful perception of permanence is the way we see our parents. And we, for many years, might assume that they last forever. Un'altra concezione errata che potremmo avere riguardo alla permanenza è il modo in cui noi vediamo i nostri genitori, perché per diversi anni potremmo pensare che loro saranno così per sempre o che vivranno per sempre. And if that is the assumption, and then all of a sudden a parent passes away, then what results is stress and lamentation, worries, and so on. E se partiamo da questo presupposto sbagliato, nel momento in cui un genitore si ammala o muore, allora noi saremo sopraffatti dal dolore, dalla preoccupazione, dalla lamentazione, eccetera. So this perception of formations as certainly being permanent, as being compact, that perception is actually quite deeply instilled in the stream of consciousness. Quindi questa percezione delle formazioni come permanenti e compatte, questa concezione è profondamente radicata nel flusso della nostra coscienza. No. Just by talking about certain impermanence, we may not necessarily be in a position to change this. To change certainly this wrongful perception of permanence. Quindi solo il fatto di parlarne non è sufficiente per garantire che uno possa effettivamente cambiare questa concezione errata che abbiamo radicata dentro di noi. No. In the course of mindfulness meditation practice, one is carefully observing what is really happening, and suddenly then after some days one starts to realize that one single rising movement is not just one continuity. E quindi anche solo dopo alcuni giorni di pratica di consapevolezza seria, diciamo, la persona si rende conto che anche solo in un movimento dell'alzarsi dell'addome, questo non è una cosa permanente. Not a continuous movement. Non è un movimento continuo. And one thing might certainly find upon very close observation that one single rising movement, which appears to be a continuous movement, actually consists of many segments, many smaller movements that together then make up what one typically refers to as the rising movement of the abdomen. Proprio grazie a un'attenta osservazione del movimento, una persona si può accorgere che in realtà non è un movimento continuo, ma piuttosto è composto di tanti piccoli movimenti successivi che tutti insieme danno l'idea, danno questa falsa percezione che sia un movimento unico. No, with careful observation one might further find that at the very beginning of the rising movement, there's some slight tension, the movement starts sudden gradually, then it picks up a certain momentum, the tension gets stronger, maybe some hardness comes in, and suddenly then maybe the movement becomes a bit hindered, and then eventually it comes to an end with fitness, a maximum expansion or so. Allora uno potrebbe notare che in un solo movimento dell'alzarsi dell'addome, allora c'è questo inizio con un po' di tensione, poi potrebbe trasformarsi in una certa durezza, e poi potrebbe esserci un ostacolo, per esempio, al movimento, fino a quando arriva al culmine dove si sperimenta la massima espansione. Per esempio. And in the case of a pain, when one carefully observes a pain that previously one saw as being pretty compact and static, now one might suddenly see a pain as consisting of many changes, the intensity of the pain going up and suddenly then decreasing, maybe the pain is gone for a little bit, re-emerging, the pain might spread out over a larger area, might even move around, and one might even find a pain breaking up into many bits and pieces, those bits and pieces might further break up, and so on and so forth. So it's a real dance of formations that's taking place. E allo stesso modo, se uno osserva con attenzione un dolore, vedrà che quello che inizialmente sembrava una massa compatta in realtà non è altro che un susseguirsi di sensazioni. Allora vedrà per esempio che l'intensità di questa sensazione può variare, oppure che si sposta da un punto all'altro, oppure potrebbe espandersi in una zona più ampia, oppure ancora osservando si può vedere che questa massa compatta si frammenta e si rompe in pezzi sempre più piccoli e che poi questi altri pezzi più piccoli a loro volta potrebbero rompersi in pezzi ancora più piccoli. Insomma, è come se fosse una danza delle formazioni. If early on, with regard to sudden shoot, the rise and fall or a pain, one would typically see just its middle portion or maybe middle and ending portion. Now, one will see the arising of a pain, so it's coming up, genesis, and then one will see the pain lasting for a while and undergoing plenty of changes, as described, and then on top of and then one goes on to see the dissolution, the breaking up of the pain. Quello che si osservava, o il modo in cui si percepiva tipicamente sia l'addome o un dolore, era normalmente di cogliere la parte centrale o tutt'al più la parte centrale e quella finale del fenomeno. Invece, se osserviamo attentamente, riusciremo a cogliere l'inizio di tutto il processo, la genesi, l'origine, e vedremo come questa sensazione nasce, si trasforma per un certo periodo e poi riusciremo anche a vedere come questa sensazione o questo fenomeno si dissolve. Now, this constant change of Fatna formations is not limited to only material formations, but also applies to mental formations or objects. Ovviamente tutta questa trasformazione riguarda non solo gli oggetti materiali, ma anche gli stati mentali. And during the most recent interviews today, yesterday, a number of you have described, let's say, a mental state like anger coming up, clearly seeing it arising, maybe even knowing the cause for it, the anger, and then maybe seeing an intensification of the anger, gradually fading away of the anger, and then the dissolution of the anger. Già molti di voi nei colloqui di ieri e di oggi hanno riportato di aver visto un po' meglio questo processo, per esempio della rabbia. Allora sono riusciti a cogliere il momento in cui è sorta la rabbia, forse addirittura la causa che ha fatto sorgere questa rabbia, hanno visto come si è sviluppata, come è aumentata di intensità, poi come è diminuita e addirittura come poi è sparita, come si è dissolta. No, that same process of Fatna change can be experienced further with regard even to our notion of a self. Quindi questo aspetto del cambiamento, della trasformazione, potrebbe anche essere applicato alla nostra nozione di un sé. Without practice, we might have we might think that our self is pretty permanent, pretty solid. Senza l'aiuto della pratica noi potremmo ritenere che il nostro sé sia permanente, sia abbastanza solido. No. Repeated observation of this sense of a self in connection, for instance, with a pain, will show that this assumption of a permanent self is not justified. E quindi questa continua e ripetuta contemplazione del nostro senso del sé, per esempio applicato ad un dolore o ad un'altra sensazione, farà sì che ci convinceremo sempre di più, o sperimenteremo sempre di più, che questa idea di un sé permanente non è giustificata. No, when the mind is certainly pretty well developed, one might certainly see how a pain arises. And certainly at first it's just a process, the pain is seen as just a process, then as suddenly the pain intensifies, the sense of self comes in and it becomes my pain. And suddenly then, if one keeps observing it, gradually one realizes it's not my pain, but it's just the pain. And then that sense of self again fades away. Uno può fare questa esperienza, per esempio, riguardo al dolore. Inizialmente, quando il dolore non è tanto forte, può sembrare, uno lo può osservare come un processo. Quando si intensifica il dolore, entra in gioco il senso del sé, che fa dire, ah, questo è il mio dolore. Se si riesce però a stare ancora con questo dolore, si vedrà come il senso del sé in qualche modo si ritrae e il dolore in qualche modo, o questa sensazione forte, a un certo punto si va a scemare, insomma, e sparisce. E questo lo può fare inizialmente una mente ben sviluppata. Now, when experiencing impermanence at first, it might even seem somewhat threatening. Quando si fa una prima esperienza di impermanenza, a volte può sembrare un po' minaccioso, minacciosa l'esperienza. Mm-hmm. But we have to look at certain various angles in connection with impermanence, and then we might see that there are also good sides to impermanence. Però dobbiamo anche vedere altri, cioè la questione da altre angolazioni, altri punti di vista, e scopriremo che ci sono anche delle cose buone, positive rispetto all'impermanenza. So, what one has, one wants to maintain. And one works towards permanency. Quindi quando uno ha qualcosa la vuole trattenere e quindi lavora o va verso la permanenza. So let's say if you have a nice building, a house to live in, and then obviously you will want to maintain this house as much as long as possible. Per esempio, avete una bella casa, vorrete tenere questa casa più a lungo possibile. However, that house doesn't necessarily follow your whims and fancies, and so over the years will gradually degrade. Tuttavia questa casa non seguirà tutti i vostri capricci, i vostri desideri, e negli anni la casa un pochino si deteriorerà. Now, there are great benefits even to change. Just imagine if the mental state suddenly that we have that determine our personality, and especially unwholesome ones, let us assume those were permanent. So if you have your mind is inclined towards anger, then for the rest of your life you will have to live with that angry personality. Immaginiamo gli stati mentali che determinano la nostra personalità, soprattutto quelli negativi, come per esempio la rabbia. Allora immaginiamo che siamo persone che sviluppano facilmente questo stato mentale, pensate alla sofferenza a dover vivere con questo tipo di personalità. So the very fact, or fortunately, formations are impermanent, and that then also applies to this anger. And so through meditation practice and other ways, one can then work on decreasing one's angry nature. On decreasing the nature. Decreasing. Yes. Quindi per fortuna le formazioni sono impermanenti, e quindi attraverso la pratica una persona può lavorare perché questa natura di avversione, di rabbia, possa diminuire. Now, imagine you have a pain, and let's further imagine that this pain is pretty permanent. Quindi immaginiamo di avere un dolore e consideriamo che questo dolore sia permanente. Then you would have to deal with it for the rest of your life. E quindi dovreste poi avere a che vedere con questo dolore per il resto della vostra vita. So grace to impermanent grace to our grace to the impermanence. Fortunately, that pain will undergo changes and probably disappear. Ma grazie all'impermanenza dei fenomeni, questo dolore prima o poi sparirà. No. The understanding of impermanence at first may seem somewhat threatening, but over time we see its sudden benefits, and over time the mind becomes increasingly equanimous about it and simply just accepts it as a fact of life, and then there's simply no problem with it. Quindi inizialmente questa idea dell'impermanenza può sembrare minacciosa, ma poi col tempo vedremo i benefici dell'impermanenza e gradualmente la mente diventerà sempre più equanime e a quel punto accetterà qualunque fenomeno nella sua vera natura. So then, when the sense of self at first is there, and maybe a few moments later it's not there, and then it comes back, then that's okay. That's just another development, that's all. E anche questo senso del sé, che inizialmente c'è, poi va via, poi ritorna, anche questo si accetta così con tranquillità, è solo un altro fenomeno che si sta presentando. Once you have seen how physical formations keep arising, changing, disappearing, and you've also seen the same thing with mental formations, wholesome mental states, unwholesome mental states, they come up, they undergo changes, they disappear, then you get pretty used to this way of seeing the world. And so, then contentment maybe arises, contentment, happiness, and certainly you know already this contentment, happiness is not going to last forever. And if it really, and if it then disappears, okay, that's fine. E quindi a forza di vedere che i fenomeni fisici e gli stati mentali sono soggetti a questa legge del cambiamento, vedendolo continuamente, a un certo punto è come se la mente si abituasse a questa natura dei fenomeni. E quindi, per esempio, se sorge una contentezza, una soddisfazione, si sa che comunque prima o poi andrà via, e quando va via uno l'accetta e dice vabbè... così stanno le cose, insomma. Yeah. Now, to see objects arising, lasting a while, undergoing changes and disappearing, is this the only way of understanding impermanence? Quindi il fatto di vedere come sorgono gli oggetti, come si trasformano, come cessano e come si dissolvono, questo è l'unico modo per fare un'esperienza di impermanenza? Are there still other ways of seeing, understanding impermanence, experiencing it? Altri modi per vedere o per sperimentare l'impermanenza? The thoughts, the thinking process. Such as? Per esempio? Almeno mio caso. Che siccome è sempre andato così, continui. Impermanenza, di essere impermanente, sì. Impermanenza che sicuramente invecchierò, e quindi non so se la mia pelle cambierà perché invecchierò, per dire, non so, vorrei pensare Quindi perché pensi in un certo modo e quindi pensi che sarà sempre così? No. Okay. Sì, sei confuso. Ah, sì, sì, sì. Ho capito. So she's saying. So you think that your life has always been in a certain way, it's always gone in a certain direction, and so inevitably it will keep on going in that direction, things will keep on happening in that way. Mm-hmm. Instead, it's not true, because life always has surprises. Okay. And your own. That is one aspect. No. Sì, questo è un aspetto, un'impermanenza. So, a more profound way of experiencing impermanence is, and that happens as part of the mindfulness practice, for a while to see formations rapidly arising and the next moment rapidly disappearing. And so, during that certain phase of practice, the middle portion of an object is barely perceptible, because the whole thing is lasting very only very short period of time. Un modo più profondo di fare esperienza dell'impermanenza succede proprio come in una fase particolare della pratica, e che è quella in cui si vede il rapido sorgere e svanire degli oggetti o dei fenomeni. Per cui la parte centrale non viene colta, viene colta solo la parte iniziale e finale di ogni processo. And certainly this particular way of experiencing impermanence oftentimes is experienced in a series. So you have one object rapidly arising, next moment it's gone. Another object elsewhere in the body coming up and disappearing. A thought arising and the next moment it's gone. Mm. Sometimes there's not even enough time to label all those objects. Mm. E quindi il modo in cui succede nella pratica è che si vedono questi oggetti, questo rapido sorgere e svanire degli oggetti come una sequenza. E quindi, per esempio, sorge una sensazione e immediatamente svanisce, e poi ne inizia un'altra e poi sparisce. E lo stesso per i pensieri: sorge un pensiero, poi improvvisamente viene tagliato praticamente. And the difference to the earlier way of understanding impermanence is earlier on you had all the time to carefully observe an object arising, and you had all the time to observe its central part and also to observe its ending. Now, you know, things are moving much faster, and so all of a sudden an object comes up, and suddenly the next moment it's gone already. Quindi la differenza tra questo modo di percepire l'impermanenza e quello precedente è che prima si vedeva tutto il processo, quindi si vedeva come sorgeva un oggetto, come si trasformava e poi come si dissolveva. Invece in questo secondo modo, quando la mente è più acuta, diciamo, si coglie solo questo rapidissimo processo del sorgere e dello svanire dell'oggetto in una rapida successione, ed è così veloce che non si riesce neanche a etichettare il fenomeno. No, there's yet certainly another new way of experiencing impermanence, and certainly that too happens naturally in our mindfulness practice, namely our mental attention starts focusing more and more on the ending portion of objects. So the dissolution of objects come or are being highlighted. C'è ancora un altro modo di fare esperienza di impermanenza, e questo anche accade in una certa fase della nostra pratica, e cioè la mente presta sempre più, sempre maggiormente attenzione alla parte finale del processo, e quindi vede come i fenomeni si dissolvono. No. Experience with many retreatants shows that most retreatants at first pretty much dislike observing that dissolution of formations. There's quite a lot of resistance there in the mind. Quindi l'esperienza con i meditanti ci dice che di solito questa fase della pratica in cui si vede la dissoluzione non è molto piacevole, non è gradita, diciamo, ai meditanti. C'è un po' di resistenza ad accettare questo fatto che c'è una continua dissoluzione dei fenomeni. However, over time, as certain informations keep, for the most part, certain passing away, gradually the mind gets certain used to this way of seeing formations. Tuttavia, con il tempo, a forza di vedere questa dissoluzione dei fenomeni, la mente ci si abitua e quindi è più accettante. And certain later on, even much curiosity develops, a retreat and wants to find out how the next object is going to pass away. E dopo un po' nasce anche una certa curiosità riguardo a questo processo, insomma, questo fenomeno, e il meditante è curioso di vedere come il prossimo oggetto terminerà, come svanirà. No. When one keeps certain informations as ending, there is no more doubt that formations are indeed impermanent and not permanent. E quando si arriva a questo punto della pratica in cui si vede che i fenomeni continuamente si dissolvono e spariscono, allora non c'è più alcun dubbio che le formazioni siano impermanenti. No, this aspect of the impermanence of formations comes up at different points in one's sattva practice here and sattva there, and whenever this way of seeing formations is predominant, well then one needs to pay attention to it. Quindi questo aspetto della natura dei fenomeni, questo aspetto dell'impermanenza, viene notato, diciamo, viene fuori in varie occasioni durante la pratica. Quindi quando viene messo in risalto è necessario esserne consapevoli e coglierlo. Now, with a maturing of one's mindfulness practice, then it could happen that one day the mind settles on some object, doesn't have to be any particular object, and then as one is witnessing in a very direct manner how it undergoes changes, or how maybe one object occurs after the other, so the objects certainly keep changing. In seeing change, with this, the mind crosses over and experiences the peace of Nibbana. Quindi può succedere con la maturazione della propria pratica che mentre un meditante è molto presente, attento a questo fenomeno, e la mente si posa su un fenomeno che sta attraversando questo processo di trasformazione, ecco che la mente ha la possibilità di fare il salto e sperimentare la pace del Nibbana. And certainly so, this aspect of impermanence of formations is so prevalent in the world, in ourselves, that Satya the Buddha has included it as one of the three universal characteristics. E quindi questo tratto, questa caratteristica, questo aspetto dell'esistenza è così importante, così presente nell'esistenza, appunto, che il Buddha l'ha inclusa in una delle tre caratteristiche universali dell'esistenza. Now, if out of not paying attention one perceives formations to be permanent, then this is called a wrongful perception. Se una persona, a causa di una attenzione errata, considera le formazioni permanenti, allora questo è considerato una percezione errata. And the Pali technical term for this is sanya vipalassa. Sanya vipalassa è il termine Pali che indica questa idea sbagliata. So if one keeps certain perceiving formations to be permanent, then from this ignorance will result a distortion of consciousness itself, known as citta vipalassa. E se uno continua in questa percezione errata della permanenza dei fenomeni, questo poi può, questa ignoranza, diciamo, può risultare in una distorsione della coscienza stessa. E questa, nella lingua Pali, si chiama citta vipalassa. And that satna then in turn, so this perversion of satna consciousness will then influence our views, and our views become twisted. We see formation, we hold the view that formations are permanent. And that distortion or perversion of satna view of a view is known as deiti vipalassa. E questa distorsione della coscienza porterà ad una distorsione della nostra opinione, dei nostri modi di vedere, e questa nella lingua Pali si chiama ditti vipalassa. No. By engaging in mindfulness satna meditation, we start seeing things according to reality. We see impermanence as impermanence. E quindi attraverso lo sviluppo della consapevolezza noi cominciamo a vedere le cose come realmente sono. Quindi vediamo che i fenomeni sono in realtà impermanenti. So we perceive formations to be impermanent. That's a right satna perception. Then, if it keeps satna happening, then influences consciousness itself, and satna then the consciousness in turn will then determine our views, and we will have right view of impermanence. E quindi viceversa, se invece grazie alla nostra pratica vediamo chiaramente la vera natura dei fenomeni, i fenomeni come realmente sono, quindi impermanenti, questo porterà la nostra, cioè influenzerà fortemente la nostra coscienza, e la coscienza a sua volta influenzerà il nostro modo di vedere le cose, quindi avremo non più una visione distorta dell'esistenza o delle cose, ma piuttosto una retta visione. No. In a natural way, after having seen or experienced impermanence to some extent, a retreatant is likely to experience formations as being unsatisfactory. Dopo un po' che si fa questa esperienza, quando si vede con una certa continuità l'impermanenza dei fenomeni, è facile che un meditante possa vedere la insoddisfazione dei fenomeni, cioè l'aspetto di insoddisfazione che danno i fenomeni. No, non è l'aspetto, no. Che i fenomeni sono insoddisfacenti, diciamo. And satna then, the very fact that formations keep changing, they lack stability, they lack steadiness, that is seen as satna, the original definition of dukkha. Il fatto che vediamo questi fenomeni che cambiano in continuazione, sono instabili, inaffidabili e via di seguito, questo è alla radice di ciò che nella lingua Pali si chiama dukkha. No. There are other aspects to the dukkha, namely that satna formations themselves are unpleasant and therefore understood or experienced as being dukkha, unsatisfactory. Ci sono altri aspetti da tenere presente parlando di dukkha, e cioè che le formazioni stesse sono spiacevoli, e quindi che dukkha è insito nel fenomeno stesso. The Samyutta Nikaya then contains a discourse that speaks of three kinds of dukkha. The first one is suffering in the form of pain, dukkha dukkata, the one that was mentioned last. Quindi il Samyutta Nikaya indica tre tipi, c'è un sutta nel Samyutta Nikaya che indica tre tipi di dukkha. Uno è il dukkha come sofferenza, ed è il dukkha dukkata, che è quello di cui abbiamo parlato adesso. And so this is bodily or mental feeling of pain as actually felt. E questo si riferisce al dolore fisico, mentale, così come viene effettivamente provato. The second form of Vatna suffering is known as suffering inherent informations, Sankhara Dukkata in the Pali scriptural language. Secondo tipo di dukkha è quel dukkha che è inerente e insito nelle formazioni stesse, e questo nella lingua Pali è Sankhara Dukkata. And this refers to the oppressive nature of all formations owing to their constant arising and passing away. E questo si riferisce alla natura oppressiva delle formazioni, che è dovuta a questa natura del continuamente sorgere e svanire. And then a third form of dukkha is suffering in change, or suffering that occurs out of fatna change, viparinama dukkata in Pali. Quindi viparinana dukkata è il terzo tipo di dukkha, ed è quello legato al cambiamento, cioè è il dukkha che sorge dal fatto che i fenomeni sono in continuo cambiamento. Now, this then refers to bodily and mental pleasant feelings. Questo si riferisce alle sensazioni fisiche e mentali piacevoli. So you have a pleasant experience, you want to hold on to it, however sooner or later it certainly passes away. Per esempio, avete una sensazione piacevole nella mente o nel corpo, cercate di trattenerla, eppure prima o poi passa. Is this true? What you say? Sorry. Is this true? Yeah, sure enough. So you take a taste. Yes. You take a taste experience. So you have your lunch, and you place some delicious food into the mouth, and a pleasant taste experience arises, and then the mind may want to hold on to this pleasant taste experience, and eventually it passes away. Per esempio, potete gustare qualcosa, vedete un buon pezzo di cibo, lo mettete in bocca, godete di questo buon gusto e vorreste trattenere l'esperienza piacevole, eppure prima o poi se ne va. Now, the Buddha says, if a thing is impermanent, is it pleasurable or painful? And the answer is, it is painful. Allora il Buddha chiede, ma se una cosa è impermanente, ma può essere, sarà piacevole o dolorosa? E la risposta è dolorosa. No. As part of our human existence, there are plenty of formations that suddenly we consider to be unsatisfactory. Per quanto riguarda la nostra esistenza umana, ci sono molte esperienze che noi consideriamo insoddisfacenti. And among those, we have the whole range of bodily pains, of stinging sensations, of maybe tearing sensations, and the like. E all'interno di queste esperienze dolorose abbiamo proprio i dolori fisici, no? Allora, per dire le contrazioni, i dolori lancinanti, o i bruciori, eccetera, eccetera. Vari tipi di dolore. And certainly there's also this long list of unwholesome mental states. E poi c'è una lunga lista di stati mentali non dolorosi o non salutari. In certain unwholesome states such as sorrow, lamentation and extreme restlessness, then maybe also being, or for sure being overwhelmed by that much anger and so on and so forth. Per esempio la tristezza, la lamentazione, l'irrequietezza, o essere sopraffatti da una forte rabbia, e così via. Now, in the course of our mindfulness practice, we have an opportunity to discover that unsatisfactoriness of formations as it is. So to see the dukkha as dukkha, rather than trying to avoid it or run away from it. Quindi nel corso della nostra pratica noi abbiamo questa possibilità di conoscere dukkha così com'è realmente, piuttosto che cercare di evitarlo o di scappare da esso. So when a retreatant has explored impermanence for a while, then quite naturally the practice will go on, and a retreatant then gets to explore this unsatisfactoriness of formation. Quindi dopo aver attraversato questa fase in cui si ha molta esperienza della impermanenza dei fenomeni, il meditante arriva a una fase della pratica invece in cui ha la possibilità di fare una diretta esperienza di dukkha. And then the interviews tend to be rather difficult and plenty of tears flowing. E poi a questo punto della pratica i colloqui tendono a essere un po' difficili e ci sono tante lacrime che scorrono. Quindi la morte è vista come un sedativo. Death is seen as a sedativo, is like a painkiller or something that that releases you from all this pain. Well, maybe you, a teacher can help you to better deal with those experiences of suffering. Magari un insegnante può aiutarvi a gestire meglio queste esperienze di sofferenza. No, indeed, in the end it's all a matter of how we relate to things, how we see new things. And we can see an unsatisfactory experience as something very terrible, but we could also simply say, well, this is part of life, and then accept it and deal with it in a more constructive way. Perché tutto dipende un po' da come vediamo le cose, da come ci relazioniamo ai vari fenomeni. Quindi può esserci un'esperienza spiacevole o dolorosa e noi potremmo reagire con sofferenza, appunto, oppure potremmo vederla come un fatto della vita e quindi in questo caso sviluppare un senso di accettazione. So for instance, ed è un modo più costruttivo di gestire la sofferenza. So when a physical pain comes up, then you might at first dislike it, but after a while you might realize, well, a pain is just another sensation, and it is just as valid as maybe a pleasant physical sensation. And over time, gradually, the mind goes or transforms to a place of equanimity, and then a pain is just another sensation. Per esempio, potrebbe sorgere un dolore e uno potrebbe prenderlo solo come un'altra sensazione fisica che ha lo stesso valore di una sensazione piacevole, per esempio. E con il tempo nella mente si sviluppa una forma di equanimità, per cui quando sorge una situazione difficile, la mente la accetta come una semplice altra sensazione. una delle tante sensazioni possibili. And apart from this, when the mind is a bit distracted, then working with a predominant pain, with a sharp pain, can turn out to be a wonderful experience, because it will cause the mind to become very sharp, very concentrated. Per esempio, se la mente è molto distratta, quando incontrerà un forte dolore, questo potrebbe essere in realtà un grande beneficio, perché il dolore costringe la mente a prestare attenzione al fenomeno e quindi a diventare più attenta. Now, working with the pain can also be helpful with regard to another difficult mental state, namely sloth and torpor. If sitting after sitting, the mind is overcome by sloth and torpor, then look for a sharp pain somewhere in the body. Un altro vantaggio del lavorare con un forte dolore è quando si ha un problema della pigrizia e del torpore. Quindi quando avete pigrizia e torpore nella vostra pratica, andate a cercare un forte dolore, perché questo può aiutarvi. Questo è un vostro alleato. And once that pain has helped you to overcome the sloth and torpor, you might be even grateful to your pain. Quando questo dolore vi ha aiutato a superare la pigrizia e il torpore, potreste anche essere grati a questo dolore. Now, the venerable Sāruputta Nyambīvams of Burma, he speaks in terms of pains, he also speaks of pleasant pains. Quindi il venerabile Upandita parla anche di dolori piacevoli. And so that is indeed when at certain for a while the mind isn't all that sharp. Earlier on it was, and when it realizes then that with the help of the observation of the pain, one's mind can become sharp again. And such a pain then is a welcome pain, and thus a pleasant pain. E quando per esempio la mente inizialmente non è così acuta, ma grazie ad un dolore poi diventa sempre più forte e acuta, allora a questo punto si parla di un dolore piacevole, perché questo dolore ha permesso alla mente di diventare più forte. With regard to physical pains and aches and mental difficult states, the mind has this tendency of wanting to push them away, of not wanting to look at them, of disliking them. Quando si tratta di dolore, di sensazioni spiacevoli fisiche o stati mentali spiacevoli, la mente ha questa tendenza a volerli allontanare, volersene liberare. And so not wanting to look at those pains, so one then doesn't get a chance to carefully observe them. E quindi il fatto di non voler affrontare, osservare queste sensazioni spiacevoli, vuol dire che una persona non riuscirà a conoscerle. So the Venerable Sāruputta's advice in this context is, when a pain has arisen, please don't quite yet change the object, change your posture, but rather stay with your pain. Ed è per questo che il Venerabile Upandita suggerisce, quando sorge un dolore, di non cambiare subito la postura o di non allontanarsi subito da questo dolore, ma di stare un po' in sua presenza. And what then happens is, when actually observing a pain, we get to know its nature, and certainly with this then eventually the pain will disappear by itself. Quello che succede è che quando riusciamo a stare con il dolore, riusciremo a conoscerne anche la natura, e prima o poi questo dolore se ne va. So more important than getting rid of a pain is to actually, with courage, face it, observe it carefully, and come to know its nature. And in this context then, or in the course of this satna development, sooner or later the pain will subside of its own accord. Quindi la cosa più importante non è liberarsi del dolore, ma piuttosto cogliere questa occasione per poter osservare il dolore, conoscerne la sua vera natura con coraggio, e prima o poi effettivamente questo dolore svanirà. So, you know, then, the observation of pains and difficult mental states may help us to overcome sloth and torpor, may help us to, what was it? Sharpen the mind. Sharpen the mind, yes. It helps it, you know, to, you know, to concentrate the mind. Mm-hmm. And satna then, it helps to develop wisdom. Quindi lavorare con il dolore ci aiuta a superare il torpore, a focalizzare la mente, quindi rendere la mente più acuta, ci permette di sviluppare la saggezza, sviluppare la concentrazione. Uh-huh. And can you see any other benefits? Riuscite a vedere degli altri benefici? No. Quello non è un vantaggio. What's that? Just to want to escape. One wants to escape. That's such a good point. Mm-hmm. And so, in the face of strong, you know, pains and difficult mental states, one... This satna may propel a person, you know, to work towards liberation, you know, from dukkha. Il fatto di affrontare ripetutamente dei forti dolori fisici e mentali può spingere una persona a lavorare verso la liberazione definitiva, diciamo, di dukkha, dalla sofferenza, e quindi nibbana praticamente. That's a good point. And satna, maybe one last satna aspect, satna here, working with a pain over and over again will clearly develop an increase in patience. Un altro vantaggio è che sicuramente lavorando ripetutamente con il dolore svilupperà inevitabilmente più pazienza. So should certainly you be experiencing, you know, some or much, you know, dukkha within, you know, this 24-hour period, then please be patient with it. Se sperimentate una certa dose di dukkha nell'arco di queste 24 ore, per favore siate pazienti con esso. And then, even if your tears are flowing, never mind. Anche se just tell yourself, well, this is part of the practice. Se scorrono le lacrime, non importa, dite a voi stessi, ma questa è parte della pratica. Or you might suddenly remember, you know, this one short satna saying, no pain, no gain. Potreste ricordarvi di questo detto che in italiano non funziona, in inglese è no pain, no gain, cioè senza dolore non c'è guadagno. In italiano non fa rima, ma non so se c'è un detto. Now, let's conclude today's Dhamma talk by wishing may the observation, the contemplation of dukkha lead you, you know, to the escape from dukkha, namely in the form of nibbana. E concluderò il discorso di questa sera augurandovi di avere la possibilità, lavorando con dukkha, quindi con la sofferenza, di liberarvi di dukkha, della sofferenza, nella forma del nibbana. And this is different. Sanu, sanu, sanu. Now, we've got a few minutes for some questions. Abbiamo qualche minuto per una domanda. Oh, here comes the first one. Che strano. Ilaria. Ho parlato della natura del permanenza delle cose, però per me ci sono dei dolori, delle sofferenze che cambiano la vita, cioè ti segnano nel profondo, ecco, voglio dire. E allora vi stavo domandando, insomma, perché è vero che le cose sono impermanenti, poi ci sono determinate sofferenze che non sono così impermanenti. Ok, so she agrees that all phenomena, all formations are impermanent, but there are some experiences, very painful experiences, physical or mental, that really leave a trace in your consciousness or in your life. And so she says there are some that are less permanent, maybe some formations are less permanent, less impermanent than others, or are more permanent than others. Are more permanent than others. Mm. Well, that is because they affect your life so strongly. That is the case. But nonetheless, there's an impossibility for change there. Mm. Sì, è vero, è possibile, però c'è anche la possibilità di un cambiamento. In so let's say some childhood, some difficult childhood experiences. Sono quello che vedo è, ad esempio, io che lavoro nel campo della disabilità, come se mi potessi sentire se mio figlio avesse un incidente grave che lo riduce a un vegetale, e questo dolore per me mi rimarrebbe dentro per sempre, ecco, voglio dire. Era questi dolori che io non riesco a percepire come impermanenti, ma li finisco come permanenti, ecco. An example from her experience, her work experience. So she's putting herself in the shoes of a mother whose son has had an accident, and he has become a vegetable, basically, she says, for the rest of his life. And the pain that this mother has inside her, how can it be impermanent? It will be a permanent pain that affects her whole life. Not necessarily. You know, the same thing. When, let's say, a woman has been married for 20, 30 years, then finds out that her husband maybe has not been loyal. This can come as a major devastating experience. Mm. Quindi non è necessariamente così. Per esempio, un altro esempio può essere di una donna che è stata sposata a 25-30 anni, scopre che il marito non è stato fedele, e questa scoperta può essere un'esperienza devastante. And so, if such a person, your mother or a woman who finds out that her husband has been not loyal, if such a person practices mindfulness in a continuous manner, then even that suffering, or the relationship to that profound suffering, will change. Però se una persona come la madre a cui ti riferivi tu, o questa donna a cui si riferiva la venerabile, praticasse la consapevolezza, sviluppasse facesse la pratica di consapevolezza, il suo modo di rapportarsi con quella sofferenza, per quanto profondissima e gravissima, eccetera, potrebbe cambiare, potrebbe modificarsi. With mindfulness, there comes a greater ability to accept things as they are. Perché si sviluppa questa maggiore abilità di accettare le cose per come sono. No, be this the loss of one's son or daughter or some other very dear person. Che potrebbe essere anche la perdita di un figlio, di una figlia o di una persona cara. And loss of a relative, of a friend, is one aspect of impermanence. So it's part of life. La perdita di una persona cara è parte di, cioè è un'esperienza di impermanenza, quindi fa parte della vita. Well, in the case of that mother, her assumption is that of Patna, the permanence of her son. And he remains in good state, in a good state or good condition for 40, 50, 60 years. Nel caso, di nuovo, per tornare al caso di questa mamma, probabilmente la sua supposizione, diciamo, era che il figlio sarebbe rimasto in buona salute per 30, 40, 50 anni. And Satna, there's a nice Satna story from the time of the Buddha in this regard. Namely, here comes a woman to the Buddha, and Satna, she's crying. She's crying because Satna, some person in her family has Satna passed away. And her suffering is Satna just tremendous. In order to make Satna the point, the Buddha sends her to various houses, or gives her a task and says, go visit various houses and try to find get some seeds. The mustard seed, there you go, and find a household in which death has not occurred. I think she comes with her baby, her dead baby or something. Makes it even more dramatic. Ok. C'è una storia molto interessante nei sutta, in cui c'è una donna con il proprio figlio morto tra le braccia, che va dal Buddha in lacrime, ovviamente, porta tutta la sua sofferenza al Buddha, e il Buddha gli dà un compito, le dice vai di casa in casa a chiedere un seme di senape per ogni casa in cui non ci sia stato una persona che è morta. And so she goes and Satna finds not a single household, or finds in every single household that death has occurred. E quindi la donna esegue questo compito e va di casa in casa e trova che in nessuna casa è stata risparmiata dalla morte di una persona cara. And Satna, with this, gradually she gets the point. E quindi in questo modo lei gradualmente riesce a capire questo aspetto. No. Okay, maybe this much for tonight. More tomorrow. Stasera finiamo qui.